Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Immaginate un'Italia minacciata dal terrorismo, un'Italia dove qualcuno piazza bombe nelle scuole, nei supermercati, e quando questo non basta, si organizza in gruppi, si mettono su un cappuccio nero e vanno ad uccidere negli stessi posti, quasi come se fossero dei cecchini. E questa è l'Italia che Patrick Fogli immagina nel suo ultimo romanzo, Io sono Alfa, pubblicato da Frassinelli. Fortunatamente si tratta di pura fiction. Fogli è un nuorista affermato, ha scritto diversi libri, tra l'altro, che si ispiravano a fatti realmente accaduti. Per esempio, ora ricordo Il tempo infranto, che era ispirato alla strage di Bologna. In questo nuovo romanzo, dicevamo, ci sono questi attentati che vengono firmati, diciamo, dopo che vengono piazzate le bombe viene lasciata una firma, una lettera Alfa. Tutte le persone in questa Italia immaginaria vengono contagiate dalla paura e si va quasi verso uno stato di polizia. Questo romanzo è stato scritto alcuni anni fa, prima per esempio della comparsa dell'ISIS, e quindi, come spesso succede, diciamo che lo scrittore ha anticipato in parte la realtà. Fortunatamente non ci sono attentati nelle scuole, ma insomma questa sensazione di paura diffusa del terrorismo esiste effettivamente tuttora. Patrick Fogli si è sentito un po', come dire, di aver anticipato i tempi? Sentiamolo. In realtà no, non un anticipatore dei tempi. Mi sento di aver fatto quello che faccio da cittadino, da essere umano, di essermi guardato intorno. La paura, indipendentemente dal terrorismo, è un po' la cifra dei nostri anni. La prima paura del terrorismo era l'11 settembre. Io ricordo il San Petronio a Bologna recintato con le transenne, perché dentro c'è l'affresco di Maometto. Mi faceva anche un po' sorridere come cosa, perché la reazione era assolutamente esagerata. Però no, viene da un'osservazione della realtà. In realtà Alfa, la paura di Alfa è il riportare le cose al loro nucleo originario, quindi alle sensazioni più forti, a quello che ci spaventa. E raccontare un mondo che, indipendentemente dal terrorismo, indipendentemente da quello, è un mondo terrorizzato da se stesso per certe volte, per certi casi, desideroso di avere cose che non può avere, che ha perso completamente il ragionamento col rapporto di causa-effetto. Quindi, di fronte a tutto questo, per cercare di metterlo in scena e di raccontarlo, serviva un impatto fortissimo. Viene da una domanda: che cosa saremmo disposti a fare di fronte a una minaccia che fa veramente sul serio, e che cosa saremmo in grado di perdere e che cosa invece non saremmo mai in grado di perdere, per che cosa resisteremmo e per che cosa invece ci faremo fare di tutto. La domanda viene da lì, e da lì viene il libro. E da lì viene anche, come dire, un libro sicuramente ritmato, un libro che ha un po' di noir, un po', ma non saprei, ecco, definirlo come genere, e che dà anche una certa angoscia, insomma, per i fatti che descrive. E allora, brevemente, insomma, i protagonisti sono tre: c'è Paolo, un giornalista, Francesca, una donna che fa il chirurgo, abita a Bologna, sposata con un poliziotto, e un politico di quelli, insomma, di pasta buona, Gualtiero, ormai, insomma, arrivato ad una certa età, che guarda le cose anche con un certo distacco. Questi tre personaggi sono legati da un fatto. Hanno una reazione di fronte a quello che accade. Quello che accade sono una serie di attentati, inizialmente nelle scuole. C'è qualcuno che mette delle bombe nelle scuole. Francesca ne sarà vittima, perderà appunto il marito e la figlia, il giornalista vuole indagare, il politico vuole capire. Hai scelto proprio tre punti di vista particolari per osservare la reazione umana di fronte al terrore e alla paura. Sì, perché in realtà era quella che mi interessava, la reazione umana. Io non metto mai in scena gli alfa, chiamiamoli così. Io ti faccio vedere gli alfa che agiscono, ma quello che mi interessava erano le conseguenze, cioè le conseguenze sulla vita di tutti. Quindi mi servivano tre punti di vista, diciamo così, privilegiati. Francesca è la donna comune, la persona che fa un lavoro come potrebbe fare chiunque. Il chirurgo mi piaceva un po' perché ho vecchie frequentazioni di amicizia in ospedale, quindi è un ambiente che conosco bene, un po' perché mi piaceva l'idea che lei fosse contemporaneamente vittima e in qualche modo curatrice, salvatrice di quello che accadeva, quindi si trovasse da tutti e due lati, da tutti e due lati della barricata. Paolo è il filo conduttore di quello che cerca di capire che cosa è accaduto veramente, i fatti reali, quello che si preoccupa di capire: ma questi chi sono? Perché fanno quello che fanno? Quello che ha una sete di verità, chiamiamola così, anche se sembra una parola molto grossa, e dall'altra parte è un uomo disincantato, solo, cinico, uno che vive una vita chiusa nel suo lavoro, chiusa nelle sue storie, chiusa nel desiderio di scoprire cose, e che per questo ha sacrificato tutto il resto, ha sacrificato una famiglia, ha sacrificato una moglie, un figlio, forse anche il rimorso, il rimpianto di averlo fatto. E Gualtiero già dal nome volevo che fosse appartenente a un'altra epoca, all'epoca in cui parlare di politica significava parlare di una cosa seria. Gualtiero è anche lui un disincantato. All'inizio della storia racconta al suo amico, dice: io sono rimasto per tutta la vita nella mia parte politica, anche quando un pezzo alla volta mi hanno tolto tutto quello per cui valeva la pena lottare, sono rimasto lì. Quindi adesso è una pianta senza più foglie, esposta al vento da tutte le parti. Però è un uomo che è abituato a ragionare sulla gente, è abituato a guardarsi intorno, abituato a cercare di capire dove va la storia, dove va il mondo. Per questo, quando succede quello che succede, è il primo a capire che non sono pazzi, che non c'è un atto folle dietro quello che succede, per quanto sia la spiegazione più semplice, che le doppie bombe, una prima dei soccorsi e una quando arrivano i soccorsi, sono una specie di prova di forza, se vogliamo sintetizzarla così, una specie di esperimento psicologico, ecco. Questi tre personaggi hanno tre reazioni diverse. Con Francesca vediamo la reazione emotiva, lei perde il marito e la figlia. Con Paolo, giornalista, si vede appunto l'indagine, lui ha anche contatti con i servizi, cerca di capire. E Gualtiero invece è quello che capisce già le ragioni. Tu prima dicevi: sono pazzi, non sono pazzi. Torna spesso questa riflessione dei tuoi personaggi rispetto a questi terroristi che, lo diciamo, si firmano con l'Alfa, ecco, per questo il titolo Io sono Alfa. E qual è la reazione di tutto il resto, diciamo, dell'Italia, del paese, che avviene in quel momento? È una reazione terrorizzata, è la reazione dello struzzo che infila la testa sotto la sabbia lasciando fuori tutto il corpo, è la reazione di chi pensa che blindarsi o rendersi sicuri possa risolvere il problema, è la reazione di quella parvenza di sicurezza in cui in realtà viviamo, perché si tratta di una parvenza di sicurezza. Abbiamo l'esempio classico recentissimo, insomma, stiamo cercando di pensare come si può evitare che un pilota folle prenda la cloche e la tiri contro una montagna, cioè senza capire che in realtà contro la follia di un singolo non c'è cura, ti devi rassegnare, senza capire che proprio il nostro modo di vivere è aperto a delle fragilità disumane, perché non esiste la sicurezza di tutti i giorni. Basta guardare, se non voglio fare la Cassandra ovviamente, basta guardare l'Angelus del Papa in piazza San Pietro, cioè non esiste la sicurezza dal punto di vista assoluto. Il mondo reagisce così, reagisce desiderando la sicurezza assoluta, accettando qualsiasi forma di privazione gli venga data in cambio della sicurezza, che è un po' quello che nel nostro piccolo abbiamo visto, reagisce ringhiando. È un'escalation di questa paura. Alla fine si instaura quasi uno stato di polizia, più che altro. E questa è la tua immagine, la tua paura, insomma. Ma io vedo un desiderio neanche troppo represso di autoritarismo. Lo vedo da noi, che in fondo siamo desiderosi da sempre di un uomo forte che ci conduca e ci accarezzi la testa e ci dica che va tutto bene, ma non lo vedo solo da noi. Giusto per semplificare e per dirne una, l'Europa è così preoccupata dei conti pubblici di tutti, è così preoccupata di questo greco che improvvisamente sembra aver alzato la testa e tiene nelle sue fila, compreso nel gruppo della cancelliera Merkel, un signore come Orban, che, come dire, ha un'idea di democrazia un po' putiniana, ecco, insomma, per intenderci. Andiamo verso derive di stampo quasi autoritario o para-autoritario e non ce ne preoccupiamo. Non ci preoccupiamo di conservare diritti che abbiamo speso secoli per ottenere, non ci preoccupiamo di capire come sarà la nostra vita domani, vogliamo solo che qualcuno arrivi, appunto, ci accarezzi la testa e ci dica: oggi va bene. Per quello la reazione di Alfa, questa allegoria del mondo del romanzo, è una reazione secondo me plausibilissima, è portata agli eccessi ovviamente, ma risponde è la mia risposta a quella domanda da cui abbiamo iniziato: che cosa saremmo disposti a fare di fronte a una minaccia che ci fa del male veramente, sul serio. La risposta del mondo è quella. La risposta dei tre personaggi forse è ritornare a essere umani. Nel tuo romanzo c'è anche una critica sociale, una critica alla società economica come è impostata oggi, nel senso che adesso non andiamo nei particolari delle ragioni per cui Alfa agisce, eccetera, per non svelare troppo del romanzo, però alcuni personaggi spesso fanno presente che abbiamo vissuto gli ultimi, non so, 20, 30, 40, 50 anni in maniera troppo commerciale. Volevi effettivamente fare una critica anche di questo senso o è pura narrativa? Ma io vedo un mondo che vive spesso al di sopra delle sue possibilità, e lo intendo non solo economicamente ma anche mentalmente. C'è molta gente, secondo me, che vive mentalmente al di sopra delle proprie possibilità, che ha vissuto gli ultimi 30-40 anni in preda a un delirio di onnipotenza che poi crea anche probabilmente la realtà in cui viviamo oggi. Sono stati gli anni in cui è stato detto alla gente che poteva fare qualsiasi cosa, bastava che lo desiderasse. Cercavo di raccontare questa realtà, che è una realtà di oggi, secondo me, condita di una superficialità disarmante, che spaccia per cultura cose che cultura non sono, che spaccia per approfondimento cose che approfondimento non sono, e che mi dà la sensazione spesso di vivere in un stranissimo chiacchiericcio continuo. È un mondo che o gira intorno oppure va dritto verso un muro e non si rende conto che è un muro, è convinto di poterci passare in mezzo, probabilmente. Anche questo mi premeva raccontare. D'altra parte, Alfa non sarebbe esistito in un mondo diverso da questo. Creare un mondo, seppur narrativo, dove scoppiano bombe nelle scuole, muoiono i bambini, arrivano i cecchini proprio ad ucciderli, proprio a prenderli di mira, è un mondo, insomma, che, ho detto, provoca una certa angoscia, una certa ansia quando si legge questo romanzo. Perché hai deciso proprio di scegliere le scuole come obiettivo, seppur narrativo, della follia di questo Alfa? Perché sono il punto più debole emotivo, sociale, perché i bambini sono il nucleo di quello che siamo come persone. Siamo stati tutti bambini, molti di noi hanno figli. Ecco, ma non è una scelta troppo facile a questo punto? Ma doveva essere facile, doveva essere facile. Alfa gioca anche molto con gli stereotipi. È ovvio che quando mi sono messo lì un secondo a pensare quale sarebbe stato l'attacco più deflagrante che si poteva fare, l'attacco che avrebbe colpito tutti, indistintamente, anche chi in qualche modo non c'era dentro, non aveva una vittima, non aveva un figlio, non aveva un parente, la prima cosa che mi sono venuta in mente sono i bambini. Peraltro l'attacco è triplice, 3 giorni, elementari, medie, superiori, 3 giorni di fila, in 3 punti diversi, in 3 scuole diverse. È l'attacco a quello che siamo, è l'attacco al futuro in qualche modo, l'attacco ai bambini. Ed è il punto più fragile emotivamente. Bisognava dare un colpo forte emotivamente all'inizio. In realtà poi lo spazio che prendono questi attentati alle scuole rispetto a tutti gli altri nel libro è molto grande, proprio perché emotivamente era il dito che si infila nella piaga, ecco. Insomma, volevo che facesse male. Eh sì, perché poi saltano in aria anche i supermercati, la gente, insomma, tutti i posti di aggregazione, mettiamola così. Però i bambini hanno un significato particolare. Hanno un significato particolare, anche perché poi chi li cerca si deve chiedere perché i bambini. Perché partiti da lì? Perché i bambini? Nessuno ha mai toccato i bambini. Quindi il punto di partenza doveva essere quello, ecco. Una cosa che nessuno ha mai fatto e che potrebbe fare una paura dell'anima a tutti quanti. E questo era Patrick Fogli, ora in libreria con Io sono Alfa, pubblicato da Frassinelli. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Giovedì scorso abbiamo celebrato la giornata mondiale del libro, il 23 aprile, ci sono state tante iniziative, l'hashtag Io leggo perché. In molti si sono chiesti, insomma, come si possono conquistare nuovi lettori. A questo proposito vi segnalo un'iniziativa che trovo molto bella, molto interessante, si intitola Adotta uno scrittore. È un'iniziativa del Salone del Libro di Torino, supportata dall'Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte. Allora, in cosa consiste? Alcune scuole superiori del Piemonte adottano proprio di fatto uno scrittore, lo incontrano in classe diverse volte fra febbraio e maggio, si fanno consigliare, ma loro stessi consigliano dei libri, cosa leggere. Insomma, è un modo per avvicinare gli scrittori ai ragazzi e per stuzzicare negli adolescenti il piacere di leggere. Domenico Starnone, che tra l'altro secondo me ultimamente è uno di quelli che ha scritto uno dei libri migliori negli ultimi mesi in Italia, Lacci, è uno degli scrittori appunto che si è fatto adottare quest'anno. Io in realtà ho accettato proprio per via della parola adottare, mi pareva molto divertente che dei ragazzi di 17 anni adottavano un uomo che è andato oltre i 70 anni. E l'esperienza è piacevole, io ho fatto l'insegnante a lungo, e devo dire che anche se ormai non insegno più, trovo comunque gradevole passare il tempo con i ragazzi e discutere delle cose che hanno letto o che non hanno letto e che dovrebbero leggere. E, insomma, la cosa mi pare che abbia dato, almeno per me, un buon esito. Poi bisognerebbe sentire i ragazzi. In Adotta uno scrittore sono previsti 3 incontri fra l'autore adottato e gli studenti. Nel primo è lo stesso scrittore a proporre dei titoli ai ragazzi. Lei cosa ha proposto? Ma in genere abbiamo parlato soprattutto di che cosa significa leggere, che cos'è lo sforzo di leggere, e poi abbiamo parlato un po' di libri, anche per esempio dell'ultimo libro che avevo letto, che è questo di Missiroli, intitolato Atti osceni in un luogo privato, e che è un libro gradevole, ben costruito, interessante. Non so se i ragazzi lo hanno letto o lo leggeranno mai, ma abbiamo accennato a questo. Poi abbiamo parlato di classici, Madame Bovary, abbiamo accennato ai grandi romanzi dell'Ottocento, i fratelli Karamazov. Ecco, ma i classici sono ancora validi per, come dire, catturare i ragazzi alla lettura? O non, per esempio, come diceva lei, il romanzo di Missiroli, che è sicuramente più attuale, un romanzo di formazione per i ragazzi? Guardi, io sono di quelli che sono convinti che se un classico è un classico, vuol dire che funziona in qualsiasi momento, in qualsiasi sede. Il problema è il punto d'ingresso e anche la modalità di, diciamo, accesso al libro, ma i classici sono classici perché raccontano grandi storie, perché organizzano personaggi grandi e non scontati e imprevedibili, perché raccontano anche come si viveva una volta e oggi non si vive più, perché descrivono oggetti che si possono vedere solo nei musei, perché danno vita spesso a un mondo che è scomparso ma che agisce ancora dentro di noi, è il nostro passato. Ecco, come ha trovato i ragazzi nelle scuole? Insomma, lei è stato appunto anche insegnante, che impressioni le hanno fatte? Sono veramente così allergici alla lettura oppure insomma può lavorare? Questi ragazzi con cui ho avuto a che fare, che sono i ragazzi del liceo Einstein di Torino, sono stati ragazzi proprio lontanissimi da come vengono raccontati, buoni ascoltatori, capaci di fare domande interessanti, disponibili, anche incuriositi e anche divertiti dall'esperienza. Quindi, guardi, quando si dice i giovani sono così e così, bisognerebbe dire alcuni giovani sono così e così, altri sono in un altro modo ed altri in altri modi ancora. Cioè, le generalizzazioni portano sempre fuori Spagna. E questa era la testimonianza di Domenico Starnone sull'iniziativa Adotta uno scrittore. L'iniziativa avrà il suo clou con tutti gli studenti che hanno partecipato al Salone del Libro di Torino, che quest'anno, ve lo ricordo, si svolge dal 14 al 18 maggio. Dalla giornata mondiale del libro del 23 aprile ha preso il via il Maggio dei Libri, un'altra iniziativa che vuole, come dire, un po' festeggiare i lettori, magari, non so, stimolare i lettori dormienti, quelli che insomma per varie ragioni hanno smesso di leggere. Fino al 31 maggio ci saranno tantissime iniziative in tutta Italia, come ci racconta Flavia Cristiano, che è la direttrice del Centro per il Libro e la Lettura, che appunto coordina queste iniziative. È difficile scegliere, perché le iniziative sono sempre tante, già siamo a oltre 1000. Allora, per dare diciamo, giriamo un pochino per l'Italia, vediamo un pochino cosa c'è di interessante, di nuovo, di particolare. Per esempio l'iniziativa Terni della Biblioteca Comunale di Castel San Giorgio, in provincia di Terni, sono abbastanza carine e particolari, letture animate per bambini con accompagnamento musicale dal vivo. Il titolo è Accordami una storia, tre incontri, ognuno con uno strumento musicale diverso, oppure buchiamo lo schermo, giocando sul buchiamo o bucchiamo, un concorso di book trailer riservato ai ragazzi. Facciamo qualche altro esempio di iniziative sì. particolarmente curiose, insomma, poi sappiamo che naturalmente gli ascoltatori possono andare sul sito ilmaggiodeilibri.it, cliccano proprio sulla regione di interesse, insomma, sul comune, e trovano tutto. Aggiungiamo che troveranno poi mano a mano anche le iniziative che si aggiungeranno a quelle che ora ci sono, perché si continua a incrementare la banca dati fino alla fine del mese. Allora, continuiamo e vediamo cosa succede a Siracusa. E qui abbiamo una scuola, l'Istituto Comprensivo Paolo Orsi, che promuove la lettura veramente in modo originale, in un negozio di abbigliamento. Il titolo dell'iniziativa è Indossa un libro e scoprirai nuovi mondi. Ci sono gli alunni e il personale di un negozio di abbigliamento che leggeranno alcuni passi dei Malavoglia e accompagnati anche da musicisti, studenti musicisti. A Torino si leggerà per esempio in un battello lungo il Po, in un'altra città, a Trieste abbiamo il tramvai che si riempie di lettori e di letture. Ad Albenga, nel centro storico, sempre gli insegnanti, perché i grandi protagonisti sono in genere le biblioteche e le scuole, i grandi protagonisti della campagna, faranno delle postazioni con lettura ad alta voce che hanno come filo conduttore la bicicletta. In base alla sua esperienza e alle edizioni precedenti, secondo lei, ora sinceramente, il Maggio dei Libri, con tutte queste sue iniziative, riesce a conquistare nuovi lettori o rende più forti, lettori che già c'erano, erano un po' dormienti, un po' pigri? Sinceramente non saprei dire, non è difficile conquistare nuovi lettori. Non so se questo è un obiettivo che raggiungiamo. Sicuramente raggiungiamo zone d'Italia poco toccate da altre manifestazioni e iniziative, e il senso più profondo è quello di segnalare l'importanza della lettura, cioè dare evidenza al libro e alla lettura, perché uno dei motivi per cui si legge poco è anche che si legge poco in generale, che non c'è un'attenzione al mondo del libro e della lettura. Quindi lo scopo è quello di accendere un riflettore, diciamo così. Il lavoro si deve fare quotidianamente, si deve fare nelle scuole e nelle biblioteche, nei luoghi deputati. Queste iniziative servono a creare una coscienza più generalizzata e a creare un po', io dico, un ecosistema favorevole. E poi diciamo che è anche un po' una festa, un modo per stare insieme fra lettori, bibliotecari, librai, insomma, fra gente che ama il libro, insomma. Esattamente. Poi c'è una cosa da dire. Per diventare lettori c'è una precondizione fondamentale: entrare in contatto con i libri. Chi non legge no, ma chi legge poco, chi è un lettore occasionale, quando si trova di fronte a una grande offerta di libri e trova i libri, li vede, forse viene stimolato, incuriosito. Questo è un altro aspetto importante, cioè offrirli, farli vedere, portarli a disposizione di tutti. Noi come Centro del Libro promuoviamo per il maggio delle piazze dove i librai esporranno una grande offerta di libri per 2 settimane. Le piazze, ossia i luoghi della quotidianità in cui il cittadino trova una grande libreria. E anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it, c'è naturalmente il podcast e potete seguirmi anche su Twitter. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.